Do il buongiorno ad Anna del coordinamento del MIT, grazie per la tua disponibilità. Grazie a voi. Siamo qui per l'edizione numero 12 di Divergenti, il Festival Internazionale di Cinema Trans che torna quest'anno a Bologna. Allora, innanzitutto le date e i luoghi in cui poi quest'anno si svolgerà il festival. Allora, dall'1 al 3 dicembre si svolgerà all'interno della Cineteca di Bologna, il Cinema Lumière, e alcuni eventi collaterali invece si terranno tra Comune e il MIT. 12ª edizione, dicevamo, quali sono le caratteristiche appunto di questa nuova edizione del festival? La caratteristica in realtà è quella del tema, che ogni anno cambia e prende appunto, scegliamo un tema che più ci è a cuore in questo momento o su cui riteniamo che ci debba essere maggiore attenzione. Quest'anno abbiamo scelto il tema del sex work, a fronte comunque anche degli avvenimenti purtroppo tragici che ci sono stati, ma anche perché quello del sex work è un tema ricorrente all'interno della comunità trans, perché per molto tempo è stato l'unico mezzo con cui alcune donne trans riuscivano appunto a sopravvivere in una società che non le includeva a livello lavorativo. Quindi per noi era fondamentale riportare comunque questo tema all'interno del festival. Ti va di raccontarci magari qualche evento particolare a cui tenete a sottolineare insomma la presenza del pubblico bolognese? Certo, allora il 1 dicembre al MIT alle 5 ci sarà un'autoformazione con Plus, perché la giornata mondiale contro l'AIDS, e quindi faremo una formazione su trattamento pre e post esposizione, perché per noi è importante anche come comunità avere dei mezzi e conoscerli, questi mezzi, per da una parte autotutelarci, da un'altra parte per eliminare lo stigma che si ha verso le persone sieropositive. E con noi ci sarà Sandro Mattioli dell'associazione Plus, che è il presidente e è un attivista che di lunga durata, ecco, quindi per noi è molto importante. Il 2 dicembre invece alle 10:30 alla sala tassinare del Comune di Bologna ci sarà una tavola rotonda su migrazione LGBTQIA+ e lavoro sessuale, in cui appunto tratteremo questo tema anche in luce dell'emigrazione LGBT, perché molte persone appunto, non avendo documenti e non essendo riconosciuti in Italia, accedono e fruiscono di quel tipo di lavoro per sopravvivere in Italia, e quindi per avere una fonte di reddito, ecco. E il 2 dicembre, sempre il 2 dicembre alle 5 al Mambo ci sarà presentata la mostra Arte, Amore, Arte e Rivoluzione, narrazione sguardi dall'underground al queer, con una lecture performance di Porpora Marcasciano. Molto interessante. E ultima domanda, c'è anche una madrina in questa edizione. Sì. La madrina di questa edizione non poteva che essere Pia Covre, che è la fondatrice nonché la presidentessa del Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute. Noi siamo molto felici di averla al MIT, perché è un'amica del MIT di lunga durata. Grazie mille per la tua disponibilità. Grazie a voi. Ciao.